acqua, venticello abitato, sassi, tanti sassi in natura convivono. Vivacità caustica, calli neuronali, amore scritto a prima vista, nero su dissolvenza, volta svolta pagina, circo città, vertigini condivise, cognizione elettrica, calli neuronali, colore sparso per la stanza, luce sulla tua assenza, volta svolta pagina. Fuori città, bici e percorsi dilatati, nessun inganno, nessuno dorme, nessun inganno, nessuno dorme. Se cresce il senso di vertigine, stai tranquillo, non sei solo, non sei sola, non sei solo. Venticello, accarezza me, avvolgimi, diluisci tutto il male relativo, trasporta all'unisono i miei pensieri, deformati al viso, di lei soave da amare, cerchi nell'acqua l'imbruire, disegnano il tuo viso. Profumo di distanze sempre verdi, profumo di irreversibili mutazioni, piedi scalzi, fresca regressione. Contatto totale, contatto totale. Sognano mezzo pesci, incomprensibili, stranieri o straniti, o sassepolte, uova schiuse, madri bionde snaturate, oggetto abbandonato nella corrente niente. Vagamente rilassante, riconcilio, riconiglio, ancora odori di città, vecchio ponte usato, usurato, auto, automazioni, automa, autoazioni, auto, automazioni, automa, autoazioni, auto, automazioni.